Sara, che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? Oh, cosa sarà che ti svegli al mattino e sei serio, che ti fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio? Oh, cosa sarà che ti spinge ad amare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta? Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno? Oh, cosa sarà che ti fa uscire di tasca dei no, non ci sto, che ti getta nel mare, ti viene a salvare? Oh, cosa sarà che dobbiamo cercare, che dobbiamo cercare? Fa lasciare la bicicletta sul muro e camminare la sera con un amico a parlare del futuro. Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, che ci porta a ascoltare la notte che scende? Oh, cosa sarà quell'uomo e il suo cuore benedetto, che è sceso dalle scarpe dal letto, si è sentito solo, e come un uccello che è in volo, e come un uccello che è in volo, si ferma e guarda giù.